Diritto d'asilo. Diverse comunità di migranti fuggiti da guerre e persecuzioni politiche nei loro paesi stanno lottando per vedere riconosciuti i loro diritti in Italia. 32 curdi hanno dovuto sostenere 17 giorni di sciopero della fame per ottenere l'asilo politico e lo status di rifugiato. E per lo stesso motivo 800 tra senegalesi e ghanesi hanno presidiato i portici di Piazza San Pietro durante l'Angelus domenicale, ottenendo un incontro con il Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione. Entrambe le iniziative sono il risultato della grande mobilitazione politica e sociale culminata nella manifestazione nazionale dei migranti contro la Bossi-Fini per la chiusura dei centri di permanenza temporanea e per il diritto di cittadinanza tenutasi il 31 gennaio 2004. Ma il diritto d'asilo è solo uno dei tanti problemi che ogni giorno devono affrontare i migranti che vivono in Italia. Le restrizioni, i dinieghi, la mancanza di strutture adeguate per l'accoglienza sono di fatto una negazione totale di qualsiasi diritto fondamentale. Proprio a Roma in questi giorni è venuta alla ribalta la vicenda del cosiddetto Hotel Africa, nella zona Tiburtina. Emiliano Viccaro, del Movimento delle e dei Disobbedienti di Roma e giornalista di carta e del sito Altre Mappe, ci racconta la situazione. Parliamo dell'Hotel Africa, che sarebbe un'occupazione che si trova vicino alla stazione Tiburtina, in cui ci sono praticamente in tre immobili abbandonati all'interno di un cantiere che trasformerà il volto della stazione. Ci sono 400 rifugiati politici o richiedenti asilo, di provenienza soprattutto africana, che da più di un anno vivono in condizioni assolutamente indegne per una città moderna. Tra l'altro una città in cui il sindaco si vanta una politica di solidarietà e di accoglienza molto importante. Ma come sei venuto in contatto con questa drammatica emergenza? Praticamente abbiamo conosciuto questa vicenda attraverso l'incontro con Medici Senza Frontiere, che è l'unica organizzazione umanitaria presente nell'occupazione, che già ci ha descritto una situazione surreale. Praticamente il comune di Roma e le ferrovie, che tra l'altro le ferrovie sono le proprietarie dell'immobile, non hanno garantito nell'ultimo anno nessun intervento emergenziale degno di questo nome. Gli unici interventi umanitari sono stati fatti grazie all'intervento della Protezione Civile e di Amnesty International e di altre associazioni. Ma com'è la situazione? Cosa fanno politica, istituzioni e movimento? La situazione è che in questi immobili, che appunto vivono circa 400 persone, e manca la luce, l'acqua, i bagni, ci sono soltanto 5 bagni in un prefabbricato per circa 300 persone da una parte, mentre l'altra palazzina non ha nemmeno i bagni. Le immondizie sono state raccolte soltanto una volta e adesso ci sono quintali di spazzatura, insomma, buttati intorno all'area, con anche gravi rischi, insomma, di infezione e di malattie. E intorno a questa vicenda si è creata una rete sociale che racchiude le associazioni locali e centri sociali e altre organizzazioni di volontariato, che hanno sollevato la questione sia con un'occupazione durante la conferenza stampa che chiudeva il ciclo di iscrizione per gli immigrati, per la possibilità del voto per il consigliere aggiunto, e abbiamo ottenuto un incontro con il consigliere di DS Bartolucci, che è il presidente della commissione appunto che si occupa della questione del voto per i migranti. Lunedì finalmente è partita la bonifica dell'area intorno ad Hotel Africa. Sono state rimosse 30 tonnellate di rifiuti accumulatisi negli ultimi mesi. Il comune ha garantito un intervento periodico dell'AMA, il rinvio dello sgombero almeno fino a giugno, e ha espresso la volontà di farsi carico di tutti i rifugiati e di voler acquisire un'area nei pressi della stazione per farne una struttura di accoglienza. Ma la situazione resta precaria, vista l'indisponibilità delle ferrovie ad allacciare luce ed acqua. Le associazioni che hanno seguito la vicenda dell'Hotel Africa ritengono a questo punto necessario aprire una campagna sulla questione rifugiati e accoglienza, legandola alla battaglia generale sul diritto all'abitare che coinvolga le comunità migranti, le reti sociali, il municipio e l'amministrazione comunale. Inoltre è stata individuata la necessità di aprire al più presto un tavolo di confronto con Comune, FS e Prefettura per ottenere delle garanzie pubbliche e formali sulla gestione della vicenda e per non ripetere sgomberi violenti. Diritto d'asilo a cura della redazione di Melting Pot Roma.